devo dire la città di Roma ha risposto appunto molto bene, ma diversamente c'è stata insomma non c'era neanche un vigile urbano per anche di pericolosità, perché oggettivamente insomma le metro erano super affollate e così anche la piazza, quindi trasbordava di per sé, tanto che diverse compagne che avevano lanciato anche altri appuntamenti, c'è stato prima di andare in piazza un appuntamento a Piazza Barberini sotto il Ministero del Welfare, dove si sono portati questi pacchi, che sono tutte le battaglie che le donne nel corso degli anni hanno fatto, di quest'anno soprattutto, che hanno fatto al di là insomma di quello che sta succedendo ad oggi e di quello che Concilia De Gregorio poi e chi insomma è dietro di lei altre donne hanno portato su il palco di Piazza del Popolo, perché il palco di Piazza del Popolo vedeva la presenza anche della Camusso, piuttosto che della tutta la parte cattolica e via dicendo, che su determinati argomenti come possono essere il mondo del lavoro, la legge 40, il pacchetto sicurezza, le donne chiuse nei CIE e via dicendo, sicuramente non hanno mai portato le donne, non hanno mai chiesto alle donne di scendere in piazza e né tantomeno non l'hanno mai portato avanti come valori politici loro assunti. Quindi diciamo che questi pacchi riportavano invece queste parole d'ordine, e con queste parole d'ordine prima a Luna si è andata tutta al Ministero del Welfare e poi dalla Piazza del Popolo si è deciso in corteo, molte con gli ombrellini rossi, un altro appuntamento che si era dato, insomma un folto gruppo di donne e non solo ha deciso di percorrere all'incontrario il ponte, a fare il Lungotevere e a bloccare quindi un po' il Lungotevere e arrivare fino a Via del Corso. A Via del Corso è stato fatto insomma un bel corteo, devo dire che l'aggregazione è stata anche molto ampia, le donne ai lati di Via del Corso che stavano casomai lì passeggiando hanno applaudito eccetera, perché diciamo le parole d'ordine a un certo punto si sono trasformate in dimissioni verso il governo Berlusconi e venire sotto a Montecitorio, dove ci troviamo in questo momento, per appunto portare i pacchi anche qua. E per cui si è stato insomma, ovviamente la piazza Montecitorio non c'era un gran quantitativo di forze dell'ordine, è stata chiusa con delle transenne che sono state anche abbastanza facilmente aperte, un po' buttate giù dalla folla di donne che proveniva da Via del Corso, quindi si è invaso di corsa e anche con urla e slogan la piazza, per poi arrivare appunto sotto Montecitorio, dove si è state un po' rinnovando questo invito a raccogliere da parte del governo non solo le dimissioni ma anche tutto il lavoro che le donne appunto fanno durante tutto l'anno, che come dicevo prima appunto piuttosto che contro la legge Tarzia, tanti anche devo dire gli slogan insomma contro la Tarzia e contro il pacchetto sicurezza per le donne rinchiuse nei CIE e via dicendo. Quindi adesso ci si sta continuando comunque a muovere, perché devo dire che la presenza continua ad essere molto alta, per cui vediamo insomma se si tornerà verso Piazza del Popolo, si camminerà per la città, vedremo un po' quello che succederà. Ecco, diciamo che in questo momento, al di là della grandissima partecipazione, è importante probabilmente sottolineare, come giustamente hai fatto tu, qual è poi il respiro di questa piazza, che è molto più ampio di quello che abbiamo visto fino a ieri, che abbiamo visto convocare chiaramente con delle parole che noi non ci troviamo a condividere particolarmente, perché è chiaro che facevi riferimento ad esempio alle donne che sono rinchiuse nei CIE piuttosto che alle donne migranti che comunque vivono nel nostro paese ma che in qualche modo non sono state contemplate per quanto riguarda, o anche alle altre donne, le donne quelle che faceva, a cui faceva riferimento l'appello. Quindi diciamo le donne sono le prime, secondo me, soprattutto quelle che con le donne ci stanno, ci lavorano, fanno politica, rimandano al mittente, e in questo caso alla mittente, qualsiasi divisione che possa esserci tra le buone e le cattive, tra le puttane e le sante eccetera, questi proprio sono le basi e le fondamenta, penso, di qualsiasi donna che proprio vive su di sé anche proprio la politica fondante, non so come chiamarla, dei maschi, degli uomini insomma, quindi è ovvio che questa è stata una delle prime tantissimi cartelli su questo, tantissimi slogan eccetera, le divisioni che quella Piazza del Popolo portava nel suo appello non sono state minimamente ricevute e sottoscritte da questo corteo. Anche il solo fatto, per esempio, di una piazza così grande tenerla dentro chiusa, dentro solo Piazza del Popolo, e non voler in qualche maniera anche appunto farla sfogare e andare in giro per la città, insomma, devo dire che le donne oggi ci sono, insomma, erano tante. Ci stavano anche molti uomini a Piazza del Popolo, come ci stanno anche qua, però le donne sono tante e hanno tutte. Poi inoltre la cosa che, insomma, mi viene anche da dire è che le donne ci stanno anche quotidianamente nella politica, nei luoghi, insomma, non è che sono assenti come molte volte queste Repubblica piuttosto che la Concilia De Gregori hanno voluto dire nel loro appello. Insomma, diciamo che questa piazza sempre ha ribadito il fatto che non si è mai stata in silenzio. Appunto, le battaglie si fanno per le donne dentrici, e nessuno si è mosso quando adesso è stato assolto per aver superato una donna dentrici, e questa che nessun Berlusconi ha chiamato. Insomma, diciamo che questa è una cosa gravissima che neanche tante donne intellettuali, piuttosto che anche il mondo, vogliamo buttarlo là, giuridico o quello sindacale, insomma, abbia detto una parola su quello che succede dentro i centri di identificazione ed espulsione, ovviamente che sono anche l'anello debole su cui le donne si scontrano, visto che è un'istituzione che hanno fatto organizzazioni, partiti di sinistra. Sì, quindi diciamo. No, no, scusami, finisci. No, non ti... No, questo, quindi diciamo che è ovvio che le divergenze ci sono, è ovvio che l'appuntamento di oggi, come tanti appuntamenti casomai di agende politiche, non li decidiamo noi, però poi sono appuntamenti dove andiamo liberamente nella città, ci muoviamo liberamente, infatti le compagne ci stanno e le loro parole d'ordine ce l'hanno ben chiare in mente, non è che mo siamo sempre qui a vedere il corso, tutto bloccato. Anche perché, insomma, mi sembra assurdo che la città di Roma non sia stata avvertita che oggi a Roma c'era un corteo, un presidio, comunque una manifestazione che prevedeva migliaia di donne e uomini, migliaia di persone in piazza, cioè non c'è stato minimamente un cambiamento di percorso, per cui è tutto. Lo vedi che succede? Lo vedi che succede? A voto Fibio! Questo è uno slogan, l'ho fatto sentire in diretta. Ok, ovviamente la cosa contro Silvio Berlusconi è, ecco, ci sta. Beh, certo. Ci sta la Piazza del Popolo e ci sta anche qua. Chiaramente noi dimissioni. In questo contesto, no, dell'anti-berlusconismo che, diciamo, ha un po' caratterizzato la Piazza del Popolo, è chiaro che comunque impernia anche tutte le altre, diciamo, mobilitazioni, perché in questo momento è chiaro che è quello che è l'argomento che è sulla bocca di tutti. Però noi sappiamo che il degrado culturale, il maschilismo, il familismo, il patriarcato non è che sono una novità in questo paese, e che le donne subiscono anni, da secoli, se vogliamo, la discriminazione e la segregazione. Quindi di fatto, diciamo che diventa questo un po' la punta di un iceberg, non è certo, probabilmente può essere stato quello che ha scatenato, però le donne che stanno in piazza oggi sono quelle che hanno sempre dimostrato la loro soggettività politica, l'hai detto tu prima, anche ribadendo il concetto che non c'è vittimismo in questo nostro modo di fare politica, ma che è una lotta quotidiana che tutte le donne fanno, in particolare chi si organizza. Citavi la legge Tarzia sui consultori, ma possiamo fare milioni di esempi su questo, no? Sì, infatti, diciamo che un altro slogan molto che ci ha portate fino a qua è stato: siamo tutte egiziane, e sciopero generale. Si continuava a parlare dello sciopero generale come una, insomma, parola, che come uno slogan che ha portato avanti buona parte del corteo. Quindi oggettivamente il mondo del lavoro è in questo momento in cui ci sta la crisi, in cui le leggi sono quel che sono, le conosciamo tutti, si sa che le donne sono le prime, che quando c'è mancanza di lavoro o c'è un momento in cui bisogna stringere la corda devono tornare a casa, o sono le prime che vengono abbassati gli stipendi, vengono fatte discriminazioni, eccetera. Quindi oggettivamente non è stato, io a mezzo a tutta la dico, oggettivamente, insomma, anche la richiesta continua, quando a Piazza del Popolo c'era comunque la Camusso che parlava, ecco, le popole faccio sentire. Esiziale, sciopero, sciopero generale. Questo, insomma, lo slogan principale. Ok, anche questo l'abbiamo, penso insomma si sia sentito bene dai microfoni della radio. Senti, allora per adesso la situazione mi sembra insomma sia abbastanza tranquilla dal punto di vista adesso del controllo, sì. Non c'è insomma parapiglia, quindi state lì, no, per adesso no, decidi. Parapiglia non c'è mai stato, no, però c'è molta determinazione. Devo dire, insomma, la piazza sa bene cosa vuole, cosa ma anche nell'andare fino a Montecitorio e quindi aprirsi il barco dalle transenne, adesso se ne sta tornando. Ti ha aggiunto un cordone iniziale della Tigos, siamo sempre su via del corso. La città è piena di gente, cioè è un momento comunicativo anche molto forte, perché non solo ci stanno tutte le donne che sono venute a Piazza del Popolo e che non ci stanno dentro, per cui via del corso era strapiena di donne, ma per di più anche gente che ovviamente a Roma è bella che sta stando in giro, quindi oggettivamente ci sta un grande insomma è positivo momento andare in giro e comunicare, parlare. Gli slogan sono abbastanza, insomma, questo, come avete sentito, abbastanza precisi. Va bene, senti, io ti sento un po', insomma, in un contesto molto caotico, quindi magari ci risentiamo fra un po', così ci raccontate come prosegue, insomma, la mobilitazione, sì, come okay, va. Se volete vi faccio anche, casomai, parlare con qualcuna, non so. Comunque, sì. Diciamo che tanto qua continua così.